Siamo in diretta, per cui saluto tutti quelli che ci seguono direttamente sulla nostra pagina Facebook e anche quelli che magari rivedranno in un secondo momento la missione. Saluto anche chi ascolta attraverso la radio di ZAM questo nostro incontro. Devo ringraziare Enrico Gobetti per l'abilità per essere qua con noi questa sera. E poi permettetemi un ringraziamento particolare a Raffaele, che in questi giorni è quello che ha messo in piedi, diciamo, la diretta, e devo dire che è stata una cosa abbastanza impegnativa, per cui lo volevo ringraziare. Poi chiaramente saluto anche Marco, che introdurrà il libro che questa sera verrà presentato. Saluto anche Maurizio Pratesi dell'Ampi 25 Aprile, che poi appunto interverrà, e Rolando Colferai dell'Ampi Ortica. Perché questa presentazione? Il 10 febbraio è del ricordo, che è un nervo scoperto della nostra storia. È una ricorrenza che, con le opportune omissioni e una ricostruzione storica storta, la destra brandisce un po' come una mazza, quasi a volersi contrapporre alla giornata della memoria. Così dicono: voi avete la giornata della memoria, noi abbiamo la giornata del ricordo, e siamo qui. Purtroppo questa commemorazione, oltretutto con una data molto vicina, solo 2 settimane, dal 27 di gennaio, dà proprio la sensazione di un voler regalare ai revisionisti un argomento di rivincita nella storia del nostro paese. Dobbiamo però dire che un po' la colpa è anche nostra, di noi antifascisti, che almeno in un passato neanche troppo lontano non abbiamo saputo contrastare con l'informazione quanto ci veniva somministrato in maniera strumentale. La storia delle foibe era diventato un po' uno spauracchio, un argomento rischioso da evitare, ed evitandolo abbiamo lasciato che la destra ne facesse un proprio cavataglia, dandone oltretutto una lettura piena zeppa di falsità storiche. Poi, ovviamente, qualcuno ha cominciato a fare luce su queste ombre che per molto tempo hanno coperto la verità, e restituendo la giusta su un momento storico comunque ancora abbastanza controverso. E una di queste persone che hanno, diciamo, riabilitato questo pezzo della nostra storia è proprio Enrico Gobetti, che, non voler regalare ai revisionisti, racconterà la sua ultima fatica, questo libro. E allora, queste persone che hanno, appunto, io, diciamo, lo ringrazio infinitamente per la sua disponibilità, questo pezzo lascio la della parola a nostra storia, e Maurizio. Pratesi dell'Ampi 25 Aprile, per un breve saluto, e auguro a tutti una buona. Buonasera a tutti, sono contento di essere qua. Ringrazio in particolare l'Ampi Stradera che ha permesso questo collegamento, oltre a Enrico Gobetti, che è l'autore del libro ed è uno scrittore, un compagno sempre disponibile a queste iniziative antifasciste. Ringrazio, è con noi come sempre l'Ampi Ortica, e conosco adesso il collettivo ZAM, che saluto. E in passato, come Ampi 25 Aprile, a parte un incontro che avevamo fatto con Enrico Gobetti a Calva Irate, alla biblioteca Calva Irate, un paio d'anni fa. Poi abbiamo fatto, sempre come Ampi, zona 3, un'altra manifestazione all'auditorium, quello di zona 3, che aveva avuto molto successo, perché il nostro obiettivo era quello di non lasciare che il giorno del ricordo fosse appannaggio della destra, cosa che purtroppo, malgrado i nostri sforzi, grazie anche al nostro ex presidente della Repubblica Napolitano, diventa difficile sempre più da contrastare, anche se devo dire che forse ultimamente qualche cosa fortunatamente si è mosso. Io saluto tutti, ringrazio ancora Eric e mi riservo poi di un intervento successivamente. Buon lavoro a tutti, grazie. Ecco, se Rolando vuole intervenire, Rolando dell'Ortica. Niente. Niente, è sparito. Chiediamo a Zam di intervenire, poi quando Rolando rientra lo facciamo parlare. Grazie. Sì, buonasera a tutti, ringraziamo come è appena stato fatto per la presentazione, per l'autore che ha voluto partecipare e lo ringraziamo anche per questo libro perché in particolare ci ha colpito nella lettura il fatto che fosse un libro con una capacità divulgativa notevole e oltre a questo, quello che abbiamo molto gradito di questo libro è stato il fatto che abbia voluto condurre tra i fatti e tra la puntualità di tutto quello che è stato riportato, a un ragionamento più ampio. Ovviamente non è un tema chiuso per due ragioni, perché hanno istituito 15 anni fa il giorno del ricordo e per il fatto che il fascismo non è una questione chiusa, è una questione aperta, e quindi probabilmente il ragionamento su queste questioni è evidente che debba andare oltre il fatto storico in sé. Però lo ringraziamo per tutta quella serie di ragionamenti con cui ha accompagnato il lettore durante il percorso di questo libro, dal primo all'ultimo capitolo. E in particolare anche per la bibliografia che è stata curata in parti diverse ed è uno spunto per altre letture. Anche noi non pensavamo di intervenire subito, quindi ci teniamo l'altra parte di intervento per dopo. Quindi tocca a me adesso, eh. Sì, perché visto che Rolando non c'è, direi che poi Certo. semmai lo facciamo parlare alla fine. Ok, grazie. Sarò breve, perché vorrei lasciare spazio alle domande che, ripeto, potete farle nei commenti della diretta, che noi le vediamo. E poi è doveroso tutti i ringraziamenti, a cominciare a quello per Eric, che si è reso disponibile alle Ampi, però è doveroso dire anche un ringraziamento a Gnocchi del collettivo Zam, che è quella la vera artefice della serata, è quella che l'ha voluto strenuamente ed è la nostra, diciamo, atto, diciamo, responsabile della memoria, perché è attiva veramente su vari fronti e questo gli va riconosciuto. Per entrare nel merito subito di due questioni e basta, volevo informare su alcune cose che sono successe in zona, Eric Gobetti. Nel Municipio 5, come in altri municipi qui a Milano, 2 anni fa è stata esposta nella giornata del ricordo il fumetto al pubblico, il fumetto Casa Pound delle edizioni Altoforte. Questo è stato avallato da tutte le forze politiche di maggioranza, compreso il nostro presidente, che passa per un moderato del centrodestra, però richiamato su questa cosa non ha sentito dire di intervenire su questo. Un fumetto che non è solo appunto di chiara impronta fascista, ma se vogliamo vederci anche dei legami sul lungo periodo tra i redattori, e penso sia proprio il grafico di punta, c'è cioè Emanuele Merlino, figlio del Mario Merlino, fascista infiltrato nei gruppi anarchici. Coinvolto poi anche negli anni dello stragismo in alcune indagini, soprattutto quella di Piazza Fontana. Ecco, questo periodo nell'indifferenza, perché anche io stesso ho mandato al Comune di Milano, in base a quel protocollo che ogni manifestazione pubblica deve avere un carattere antifascista dichiaratamente, io ho mandato più mail e non ci sono state risposte su questo piano. Quindi la cosa ormai è entrata un po' nel senso comune. Non un senso comune che possiamo legare al 2004. Per me l'impianto col quale era stato lanciata la giornata di ricordo era già altamente discutibile. Oggi si parla, ne parla anche Eric nel suo libro, di ormai uno scivolamento verso il fascismo. Lo scrittore Antonio Tabucchi parlava di blanquissage di Salò, e ormai ci siamo in pieno, e per me non è una tendenza in atto, ormai vedo che ci siamo, perché nessuno entra più in queste cose. E anche per questo vorrei dire che sulla questione del negazionismo, che c'è un dibattito dell'AMPI, dell'accusa di negazionismo, io penso che questa cosa e parlare solo dei crimini del fascismo, dell'esercito anche italiano in Jugoslavia, dobbiamo anche rispondere a si nega qualcosa, si nega un discorso, qui non c'è un discorso, possiamo dire che è uno pseudo discorso, un coacervo di mitologie, ma qui noi non stiamo negando niente, perché non c'è confronto, non c'è produzione storica, non ci sono i fatti, non si salvano i fenomeni, è completamente una mistificazione, e su questo dobbiamo dire che noi neghiamo, è un discorso col quale non possiamo interloquire, questo perché è una presa di posizione netta del punto di vista fascista. Ecco, se vogliamo poi, e qui chiudo, richiamare quel indiziario, come lo chiamava lo storico Carlo Ginzburg, chiamava questo, all'interno di questo paradigma indiziario ci sono delle spie che magari sono laterali, non sono dirette, pseudo discorso. E queste spie che cosa sono? Il primo è, se vogliamo, e ne parla Eric nel suo libro, riconoscimenti che sono stati dati ai parenti delle vittime. Il 30%, mi ricordo un articolo del Corriere della Sera di tanti anni fa, il 30% a criminali e a fascisti e a collaboratori attivi del fascismo. Quindi già su questo terreno indica, è una spia che indica che c'è qualcosa che non va, ma qualcosa di forte. La questione della fotografia dei partigiani sloveni fucilati dall'esercito italiano, che passa nella loro propaganda come se fosse legata alla questione delle foibe, altro indizio che non si premurano neanche di prendere le distanze e di capire l'errore. E in ultimo la questione della foiba di Basovizza, come ha anche sottolineato Eric, no? Di aver preso un monumento che fare molto lontano dallo pseudo discorso che fanno. Ecco, mi limito qui, so che questa è stata anche mia, questa mia esposizione conteneva più di una domanda. Ripeto, prima di dare la parola a Eric Gobetti, di chi volesse fare domande di metterle nei commenti. Noi poi cercheremo di riportarle. Buona serata e a te Eric. Grazie dell'invito innanzitutto, anch'io ringrazio Cecilia che ha insistito giustamente per organizzare questo incontro e naturalmente i padroni di casa dell'AMPI. Allora io ho scritto questo libro e allora le foibe con un duplice intento, diciamo così. Da una parte una motivazione professionale la definirei. Cioè mi sono reso conto in questi anni facendo numerosi incontri su questo tema, credo appunto anche una volta da voi, sul tema delle foibe, dell'esodo in generale, dei temi del giorno del ricordo, mi sono reso conto della distanza sempre più incolmabile tra i risultati della ricerca scientifica, della ricerca degli studiosi, pur con diverse interpretazioni, con toni differenti, con sguardi differenti, ma che comunque diciamo coincidono almeno nell'identificazione dei dati principali, cioè l'ordine di grandezza delle cifre, la denominazione dei fenomeni, il contesto storico e geografico. Ecco, su questi elementi, diciamo così, non ci sono dubbi, i storici sono tutti concordi. Ecco, la differenza colossale che c'è tra questo e invece il discorso pubblico. E qui direi, a prescindere anche dalle posizioni politiche, cioè il discorso pubblico in generale, quindi qualunque esponente politico, i film prodotti o coprodotti dalla RAI, i discorsi presidenziali sono totalmente slegati dalla realtà storica e questo insomma mi sembrava particolarmente grave e quindi ho cercato di fare un libro appunto di divulgazione, di facile accesso non è un libro di ricerca, a differenza dei libri che ho realizzato in precedenza, è un libro che cerca di portare i risultati di tanti colleghi che hanno lavorato nei decenni precedenti su questi temi, appunto renderli accessibili al grande pubblico in modo da chiarire per tanti che non conoscono la vicenda o sono confusi o sentono appunto da molti anni ormai questi toni propagandistici e strumentalizzati, per cercare di capire cosa è realmente accaduto, cosa sono realmente questi fenomeni. Questo ovviamente non significa sminuire, ridurre, negare o giustificare niente. Un crimine non può essere giustificato, le cifre, appunto, ripeto, l'ordine di grandezza delle cifre ormai è chiaro e quindi non ho nessuna intenzione di ridurlo. Il problema è che le cifre che abitualmente vengono offerte sono doppie o triple rispetto a quelle reali e quindi non sono io che le riduco, o meglio non siamo noi studiosi che le riduciamo, ma sono i propagandisti politici che le gonfiano. Quindi non siamo noi riduzionisti, ma sono loro gonfionisti, come ho detto recentemente con un neologismo da me inventato. Tantomeno ovviamente l'accusa del negazionismo, che chiaramente è un'accusa infamante e che non solo è usata con l'intento di screditare gli studiosi in generale, perché ormai viene usata per accusare chiunque faccia storia. In qualche modo, chi usa il termine negazionismo di fatto sta negando lui stesso la storia, vuole tenere la storia al di fuori da questa giornata commemorativa, e questo è sicuramente quello che noi cerchiamo di contrastare anche con la serata di stasera. Chi usa il termine negazionismo non solo fa questo, cioè non solo cerca di negare la storia, ma anche in qualche modo finisce per, mettendo sullo stesso piano Foibe e Esodo, finisce per mettere sullo stesso piano Foibe e Esodo, usando, Foibe e Shoah, usando un termine che di solito viene utilizzato per la Shoah, quindi assimilando questi due fenomeni, e quindi in qualche modo con intenti sostanzialmente riduzionisti nei confronti della Shoah. Quindi sono negazionisti, chi usa questo termine nei confronti degli storici è negazionista in tutti gli aspetti, sia nei confronti della storia di queste vicende, di cui non vuole sentire parlare, e sia nei confronti in qualche modo anche della Shoah, perché appunto assimilando quel fenomeno a quello delle foibe di fatto sta riducendo grandemente l'importanza invece unica della Shoah come fenomeno storico imparagonabile con qualunque altro evento della storia. Quindi cosa dicevo, io ho scritto questo libro per un intento, diciamo, professionale, ma anche per una sorta di dovere civile. Cioè, mi sono domandato perché il racconto pubblico è così lontano dalla realtà? Che cosa si vuole raccontare invece della realtà, invece della storia? Perché non si guarda la storia e se ne fa solo un uso strumentale? E ho cercato di raccontare nel libro, penso, insomma, brevemente, ma in maniera abbastanza chiara, quali sono i principali fili narrativi, diciamo così, che si vogliono trasmettere agli italiani. E ho identificato due elementi che sono entrambi gravi, ognuno a modo suo, uno credo più grave dell'altro. Uno è quello, diciamo, nazionalista, non mi viene in mente un altro termine, cioè la costruzione, la stessa decisione di creare un giorno del ricordo su questi temi è in qualche modo il frutto di una scelta bipartisan dei due partiti politici, diciamo, principalmente eredi del neofascismo e del comunismo, con l'intento di una sorta di riconciliazione nazionale, quindi sulla base del riconoscimento delle reciproche vittime tra fascisti e comunisti, nella logica, nella congiuntura politica dell'epoca, fino agli anni 90, inizio anni 2000, nella stessa logica, diciamo, dei discorsi sui ragazzi di Salò, insomma, gli incontri tra Violante e Fini, eccetera. In questa costruzione simbolica l'intento è quello di in qualche modo identificare un nemico nazionale, in questo caso gli slavi, che avrebbero commesso una qualche violenza nei danni degli italiani in quanto tali. E quindi da qui nasce per esempio l'utilizzo del termine pulizia etnica, che è un termine assolutamente scorretto parlando di questo fenomeno. Innanzitutto è un termine che nasce durante la guerra degli anni 90 e che fa riferimento alle violenze commesse in quel contesto, che non può essere riportato alla Seconda Guerra Mondiale, che ha caratteristiche certamente anche nazionali in qualche modo, ma ha sicuramente caratteristiche soprattutto di tipo di scontro ideologico, e su questo vorrei anche sottolineare un aspetto, che non è uno scontro ideologico come si vorrebbe raccontare tra fascismo e comunismo, e quindi in qualche modo anche contrapponendo le due ideologie, anche cercando un po' di metterle sullo stesso piano. In fondo, non ho due mali, due facce della stessa medaglia, due mali del totalitarismo. Non è così, questa è una ricostruzione ideologica. Molto recente, peraltro, della Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è uno scontro tra fascismo e nazismo da una parte, cioè le forze che hanno portato avanti la Shoah, che erano animate da valori razzisti e dall'idea di sterminare interi popoli solo per la loro appartenenza nazionale, contro un immenso fronte antifascista, che certo includeva anche i comunisti, ma non solo, e nel quale fronte antifascista, scusate, faceva parte anche il movimento di liberazione jugoslavo. Ecco, quindi appunto io ho identificato un aspetto, che è questo, diciamo, che di fatto è nazionalista, no? Quindi una sorta di riconciliazione nazionale rispetto a un nemico. A un amico esterno che avrebbe commesso dei crimini in nome diciamo, per colpire l'italianità, cosa che diciamo, è facilmente smentita dagli studiosi. Ma c'è anche un altro utilizzo strumentale, che è quello della rivalutazione dell'operato del fascismo in quest'area. Una rivalutazione inaccettabile, perché il fascismo in quest'area è responsabile di 20 anni di oppressione e di dominio particolarmente violento in quest'area rispetto al resto d'Italia, perché si è rivolto soprattutto contro le minoranze nazionali presenti in quest'area, slovene e croate in particolare, con un'oppressione violenta e inaccettabile, e di 2 anni di occupazione militare del territorio jugoslavo, che comincia nell'aprile del 41 e termina con l'8 settembre del 43, che fa probabilmente almeno un numero di vittime dirette, almeno intorno alle 10.000 vittime, ma diciamo indirettamente porta all'uccisione di 1 milione di jugoslavi, cioè la Jugoslavia perde 1 milione di persone durante la guerra, è il paese forse in Europa che ha il maggior numero di vittime dopo la Polonia in relazione al numero di abitanti. Quindi una violenza altissima, che in gran parte è dovuta alla volontà di occupazione e di annessione da parte della Germania nazista e dell'Italia fascista. Questa costruzione simbolica, peraltro, è resa possibile dall'oblio rispetto a questa vicenda, perché l'Italia commette innumerevoli crimini di guerra nel territorio jugoslavo in questi anni, ma questa è davvero una vicenda di cui non si è mai parlato. Quando parliamo di congiure del silenzio, di dimenticanza colpevole di alcuni fenomeni, e poi parleremo anche della congiura del silenzio rispetto al tema foibe-esodo, ma direi che sicuramente c'è fin dall'inizio, fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e ancora oggi permane un totale oblio di quelli che sono stati i crimini commessi dall'esercito italiano e fascista, non soltanto in quest'area peraltro, ma forse ancora peggio nei territori coloniali in Africa. Ecco. La volontà è quella, in qualche modo, di identificare quindi il fascismo come vittima, e quindi identificare le vittime in quest'area come fascisti, assimilando sostanzialmente le due figure, cioè se il fascismo è vittima, cioè se i fascisti sono vittime, di conseguenza anche le vittime sono fasciste. Questo cosa significa? Che di fatto non soltanto si scagiona completamente l'operato del fascismo in queste aree, ma si come dire, si accolla alle principali vittime di tutta questa vicenda, che sono gli esuli, adesso ne parleremo, cioè quelle 300.000 persone che alla fine della guerra, più o meno forzatamente, decidono di abbandonare questi territori e rifugiarsi in Italia, che vengono in qualche modo, gli viene accollata la responsabilità di essere fascisti, una responsabilità che non hanno e non meritano, anche perché sono loro le principali vittime di questa storia. Sono le vittime come tanti altri europei, intendiamoci, la Seconda Guerra Mondiale produce vittime dappertutto. Gli esuli fanno parte, come dire, il fenomeno dell'esodo fa parte di un fenomeno più grande che riguarda tutta l'Europa, soprattutto l'Europa centro-orientale, e dove le principali vittime forse sono i tedeschi, che sono 12 milioni di profughi che fuggono da vari territori dell'Europa centro-orientale. Però, ok, gli esuli fanno parte di questo grande flusso di popolazione, ma dicevo, sono vittime della guerra come tutti gli altri italiani, ma sono vittime due volte, sono vittime anche della pace, perché sono costretti a lasciare le loro terre per rifugiarsi in Italia. E quindi, in qualche modo, sono quelli che hanno pagato per tutti la sconfitta dell'Italia in guerra. Una guerra che, ricordiamo, l'Italia ha contribuito a scatenare e ha perso. Ecco, io nel libro cerco di analizzare una serie di luoghi comuni, diciamo così, di stereotipi che vengono solitamente utilizzati appunto nel discorso pubblico quando si parla di questi fenomeni. Ne accenno solo un paio, giusto perché non c'è il tempo per parlare di tutto. Uno di questi è sicuramente, direi, il presupposto principale da cui tutto il ragionamento nasce, e cioè l'idea che queste terre siano terre italiane, siano terre totalmente italiane, italiane da sempre. Ora, questo, come sanno tutti gli studiosi, è un'affermazione assurda. I territori dove sono avvenuti questi fatti, che sono territori del nostro confine orientale, che sarebbe più corretto chiamare l'Alto Adriatico, cioè compresi tra la città di Gorizia, Trieste, Fiume e tutta l'Istria, sono territori che fino alla fine della Prima Guerra Mondiale erano caratterizzati da una convivenza tra popolazioni con identità culturali, linguistiche e nazionali differenti, e che avevano creato, anche per questa ragione, identità localiste molto forti e molto, molto nette, molto differenziate rispetto ad altre regioni d'Europa. Erano un mondo culturale unico, straordinario, che è andato perso completamente con la fine dell'esodo alla metà degli anni 50. Sostanzialmente, quando questi territori hanno smesso di appartenere a un impero multiculturale, multinazionale come era l'impero austro-ungarico, e sono entrati invece a far parte dello Stato italiano, che era uno Stato nazionale, uno Stato-nazione, quindi uno Stato che, come dire, immaginava l'appartenenza a un'unica identità nazionale, cioè quella italiana, e quindi la imponeva, e questo Stato si è rapidamente trasformato in uno Stato fascista che ha imposto con la violenza questa appartenenza nazionale. Quindi questi territori da quel momento hanno cominciato a perdere la loro caratteristica multiculturale e multinazionale, hanno cominciato a e si è innescato, come dire, quel meccanismo di violenza che poi è arrivato fino alle foibe e all'esodo. Una storia di violenza quindi che dura 40 anni e che non può essere ridotta a due singoli episodi, come viene fatto di solito nel discorso pubblico, che comincia con l'8 settembre del 43 come se non ci fosse niente prima. Credo che dagli accenni che ho fatto fino adesso pare chiaro che prima c'è stato molto, e per comprendere che cosa accade nel 43 e poi nel 45 è necessario capire che cosa è successo prima. Ripeto quello che dico spesso: capire non vuol dire giustificare, non ha nessun senso giustificare i crimini commessi dai partigiani contro persone indifese e non armate alla fine della guerra. Ma se noi non capiamo qual era il contesto in cui quelle violenze sono accadute, non possiamo dargli nessun senso, non possiamo comprendere niente, possiamo solo rappresentarle, come spesso viene fatto, come una violenza innata che spinge gli slavi a sterminare la gente perché ce l'hanno nel sangue, che è un discorso completamente razzista e che affonda le sue radici in una propaganda fascista e nazista, ma anche in una cultura, diciamo, antislava molto precedente al fascismo stesso. Aggiungo altre due cose, poi darei spazio alle domande se ci sono. Allora, innanzitutto è stato detto giustamente che in qualche modo questa giornata è stata creata, come dire, per assimilare queste violenze alle violenze della Shoah, no? Lo stesso termine utilizzato, ricordo, memoria, creano immediatamente confusione tra le due vicende, e la vicinanza delle due date ovviamente favorisce questa assimilazione. L'utilizzo del termine continuo, del termine negazionista per accusare gli studiosi che semplicemente fanno ricerca su questo tema è un'ulteriore spia della volontà proprio di assimilare queste due date. Io credo che l'obiettivo non sia tanto quello di proporre una giornata alternativa alla giornata della memoria. In qualche modo, anzi, le due giornate vengono sempre volontariamente appunto assimilate e avvicinate il più possibile, al punto che ormai molte amministrazioni pubbliche le celebrano insieme. Come dire, i due drammi del Novecento, uno dovuto al fascismo e l'altro dovuto al comunismo. Quindi assimilando i due totalitarismi, assimilando i due fenomeni, che, ripeto, non hanno praticamente nulla in comune, se non il fatto di essere accaduti più o meno nella stessa epoca storica. Ma il vero contraltare, diciamo, la vera giornata alternativa alla giornata del ricordo sta diventando sempre più il 25 aprile, la giornata della liberazione. E questo è il vero obiettivo, diciamo, strategico delle forze politiche che stanno sempre più, diciamo, monopolizzando questa data. Questa data sta diventando sempre più una data memoriale delle vittime fasciste, lasciando quindi al 25 aprile il compito non più di essere una data nazionale, una data di festa nazionale, cioè di festa di tutti gli italiani, che si identificano quindi nei valori dell'antifascismo, che dovrebbero essere i valori fondanti della nostra Repubblica, ma invece una data divisiva, come piace dire a queste persone, una data che è solo dei comunisti, dei partigiani, ma di fatto dei comunisti, perché ormai c'è un'assimilazione totale tra partigiani e comunisti, appunto, secondo, riprendendo un altro degli errori storici di cui accennavo prima. E questo direi che, per esempio, è molto evidente nella graphic novel che avete nominato, di cui Merlino è, credo, non il disegnatore, ma credo lo sceneggiatore. E Merlino è anche uno dei principali animatori, non so se il vicepresidente del comitato 10 febbraio, che è il comitato che con un'apparente neutralità sta proponendo l'intitolazione in molte parti d'Italia di vie, parchi, piazze intitolate a Norma Cossetto. E questa è un'altra strategia. Tra l'altro, Norma Cossetto è la protagonista della graphic novel di cui avete parlato, e anche del film Rosso Iste, di cui forse parleremo più tardi. Questo utilizzo strumentale della morte della povera Norma Cossetto, che senz'altro è una vittima di quelle violenze, senz'altro è una vittima innocente della guerra, e però è evidente come ci sia un uso strumentale della sua morte, anche direi vergognosa nei confronti della memoria sua e della sua famiglia, perché si vuole, come dire, creare di questa figura una martire, ignorando il fatto che una martire nazionale, cioè una martire che dovrebbe essere riconosciuta da tutta la nazione, ignorando però il fatto che, appunto, ribadisco, una vittima può essere tranquillamente una vittima innocente, una volta che le persone sono morte sono tutte uguali, cioè questo è indiscutibile, ma perché una persona possa essere considerata martire, sempre che ci sia ancora bisogno di martire nel nostro paese oggi, ma bisogna valutare quali erano i valori che incarnava in vita, non che cosa significa il suo cadavere. E quindi in vita Norma Cossetto era una fascista conclamata, era parte di una famiglia fascista importante nel suo paese e viene colpita per questa ragione. Lei è anche il padre che morirà combattendo a fianco dei nazisti contro i partigiani negli stessi giorni. Ora, se Nocetto incarna quindi i valori del fascismo, non può diventare una martire nazionale, non può essere presentata in maniera apparentemente neutrale come una figura che lo Stato italiano deve commemorare come personaggio significativo della sua memoria storica. Questo credo che sia inaccettabile. E non a caso questo tipo di offensiva, diciamo, politica viene portata avanti da persone come Merlino, cioè da esponenti dell'estrema destra neofascista italiana. Per il momento chiudo e poi rispondo volentieri se ci sono domande. Grazie. A tuttora io non vedo nessuna domanda nei luoghi preposti, quindi darei lo spazio a Zam, che voleva fare una domanda, e poi anche a Maurizio, che anche lui aveva in serbo qualcosa. Quindi adesso a Zam e dopo Maurizio. Allora, sì, esattamente questa cosa del 25 aprile la vorremmo sottolineare anche noi, ma prendendola praticamente da un'altra parte. In un altro libro, cioè L'armadio della vergogna di Giusto Lisi, che è l'esatto opposto del libro di Gobetti, nel senso che non è una lettura agevole, dato che è la cronaca di tutti i massacri compiuti dai nazifascisti da dopo l'8 settembre. Dice chiaramente in un punto che noi avevamo una cosa come 1700 criminali di guerra che ci richiedevano diversi stati, cioè richiedeva l'Unione Sovietica, la Grecia, l'Albania e soprattutto la Jugoslavia. E cita due storici, Focardi e Klinkhammer, che hanno elaborato una teoria secondo la quale i primi governi dell'Italia liberata non hanno voluto non hanno chiesto l'estradizione dei criminali nazisti per non dover consegnare i propri criminali. E quindi, dato che questa cosa è successa praticamente subito, io ho immaginato che su questo rimosso, su questa questione che non è mai stata affrontata dall'inizio, poi è evidente che si possono creare delle cose come appunto la giornata della memoria, che anche secondo me, come diceva Sannella, è pura propaganda, è una celebrazione che prende spazio dove ovviamente trova vuoto, cioè trova il vuoto di qualcosa che non è mai stato affrontato e si prende e con la propaganda ricostruisce praticamente no, tutto quello che vuole, senza contare la storia, senza essere puntuale nei fatti e questo praticamente. Su questa cosa volevo aggiungere il fatto che anche noi a Milano abbiamo adesso un monumento alle foibe. Ed è stato eletto da pochissimo, nel senso ce l'abbiamo dal 10 ottobre 2020, è stata una cerimonia abbastanza partecipata, dove c'erano parecchi gruppi appunto di, immagino, esuli istriani e dalmati, si sono visti parecchi gonfaloni con improbabili scritte rivendicative, insomma, e soprattutto uno striscione in particolare che mi ha colpito, che diceva che oggi, dopo 74 anni, Fiume torna in questa piazza. E questa è una cosa che a me ha colpito molto, perché posso capire celebrare un crimine, celebrare una perdita, magari avere anche un monumento, ma che significa che una piazza che adesso si chiama Repubblica, Piazza della Repubblica, debba essere, cioè si debba celebrare il fatto che si torni a prima del fatto che si chiamasse Repubblica? Questa cosa mi ha colpito molto perché non mi sembra una celebrazione che vuole semplicemente ricordare un fatto accaduto, un fatto passato. Mi sembra qualcosa che appunto voglia che quel fatto passato ritorni in qualche modo. A me sembra assolutamente chiaro come intento. E mi fermo qua. Se posso rispondere un attimo prima di dare la parola a Maurizio. Innanzitutto volevo sottolineare uno splendido lapsus che hai fatto, Cecilia, perché hai detto giorno della memoria invece che giorno del ricordo, e questo diciamo già dice tutto. Da chi ha istituito il giorno del ricordo, no? Di farci confondere. Esatto. Esatto. Hai proprio messo in scena quello che avevo appena detto. Appunto, non ci sono dubbi che questo tipo di racconto pubblico, in qualche modo, appunto, avendo espliciti aspetti nazionalisti, finisce per innescare un meccanismo di revanchismo, di nazionalismo, di neo-irredentismo. Io non ho la R, quindi faccio fatica a dirlo, ma insomma, quella roba lì, che è molto grave ed è anche. Io credo, al di là di qualunque cosa si possa pensare della vicenda, è sbagliato nella logica dell'Unione Europea, della riconciliazione tra paesi europei che hanno vissuto esperienze traumatiche nel Novecento, ma che insomma oggi dovrebbero ragionare in un'ottica diversa. E siccome tutti i paesi europei tendenzialmente cercano di ragionare in un'ottica diversa, di riconciliazione, eccetera, non si capisce perché l'Italia deve essere l'unico paese che invece ogni anno provoca tensioni e nuovo odio nei confronti dei nostri paesi confinanti, Slovenia e Croazia, che peraltro sono entrambi paesi dell'Unione Europea. Non solo l'esempio che hai citato, ma anche, se ricordo bene, lo scorso anno Tajani a Vasovizza diceva dobbiamo riportare l'Istria in Italia, eccetera, eccetera. Cioè, importanti esponenti delle istituzioni italiane che si permettono di fare dichiarazioni neonazionaliste, neo-irredentiste di questo tipo, secondo me è veramente molto grave nel contesto dell'Unione Europea di oggi. E come minimo questo andrebbe, diciamo, impedito e fermato. Poi c'è un altro aspetto in quello che raccontavi, che è l'aspetto del fatto che la gran parte di queste associazioni di esuli, tu dicevi c'erano tanti esuli, ma in realtà gli esuli, io ribadisco, io ho conosciuto tantissimi esuli nei miei anni di studi, di ricerche su questi temi, ma la maggior parte degli esuli che io ho conosciuto non hanno questo, cioè non si riconoscono in questo tipo di costruzione, in questo tipo di immaginario. Sanno perfettamente che l'Istria e in generale quelle terre erano terre multinazionali, multietniche, riconoscono la complessità della vicenda, cioè non si riconoscono in questi slogan. Allora il problema è che c'è stata una strumentalizzazione politica di queste associazioni che sono state monopolizzate dall'estrema destra neofascista, ma non oggi, sono state monopolizzate da 60 anni, da 70 anni, a causa proprio di quella congiura del silenzio che è stata nominata prima. Cioè, in questo certo anche la sinistra ha le sue responsabilità, ma non solo, perché io ci tengo anche a ricordare che quando si dice per decenni i comunisti non hanno voluto parlare delle foibe, dell'esodo, di queste vicende, ma i comunisti non hanno mai governato l'Italia, cioè ce ne siamo accorti o no? Io non riesco a capire, cioè continuiamo a usare come se fossero vere affermazioni propagandistiche probabilmente rilanciate in maniera mass mediatica da Berlusconi quando è sceso in campo nei tardi anni 90, ma che sono ridicole. Cioè, siccome il Partito Comunista non ha mai governato l'Italia, se lo Stato italiano avesse voluto fare una giornata del ricordo nel 52 o nel 63 o nel 78, l'avrebbe potuto fare tranquillamente, aveva i numeri per farlo. Quindi, se non è stato fatto, evidentemente non è per colpa dei comunisti. Certo, i comunisti hanno contribuito, nel senso che c'era, come spiego ampiamente nel libro, adesso non mi dilungo, c'era una volontà bipartisan, sia del PC sia della DC e dei partiti di governo, di non toccare questi temi per ragioni differenti ma comunque coincidenti. Questo però ha fatto sì che la memoria degli esuli in particolare, e comunque in generale la memoria delle violenze del confine orientale, è stata monopolizzata dall'estrema destra neofascista, che ovviamente aveva interesse a monopolizzarla, in parte perché era effettivamente rappresentava le vittime delle foibe soprattutto. Teniamo presente che tra l'altro i due fenomeni sono totalmente slegati, cioè nel racconto, nell'immaginario collettivo sembrano la stessa cosa o uno la conseguenza dell'altro, ma l'esodo avviene in un periodo storico molto lungo, comincia già durante la guerra, termina a metà degli anni 50, a che fare con la fine della guerra e con la ridefinizione del confine. Le violenze che noi chiamiamo abitualmente per semplicità foibe avvengono in due momenti specifici, che sono episodi molto brevi in realtà, uno nel settembre del 43 e l'altro nel maggio del 45. Quindi, come vediamo anche dalle date, ha ben poco a che fare con l'esodo. Però, appunto, i fascisti in qualche modo erano stati principali vittime delle foibe e hanno monopolizzato le associazioni degli esuli perché erano state abbandonate loro stesse, perché in qualche modo non avevano altri appoggi politici in Italia se non quelli. E quindi si è finito per... E quindi oggi, quando noi parliamo di queste associazioni degli esuli, di fatto stiamo parlando di associazioni neofasciste. Cioè, mi dispiace dirlo, perché mi piacerebbe pensare che invece gli esuli, che la cui stragrande maggioranza non sono mai stati fascisti, non lo erano prima, non lo sono nemmeno oggi, potessero avere un modo di esprimersi che non sia quello, ma purtroppo in gran parte non è così, e questo è uno degli aspetti problematici. Aggiungo un'ultima cosa, scusate se mi dilungo, però secondo me è molto interessante. Tu accennavi alla volontà dello Stato italiano di impedire i processi ai criminali di guerra. Sicuramente questo ai criminali di guerra che hanno commesso crimini in vari paesi del mondo nell'epoca fascista. Sicuramente questo è uno dei motivi dell'oblio su questi temi, cioè una volontà politica ben precisa nell'immediato dopoguerra per impedire la consegna dei criminali di guerra e quindi questi processi, che è quella teoria che tu dicevi di Filippo Foccardi non è una teoria, diciamo è di fatto, cioè, tutti gli storici concordano su questo evento. Di fatto lo Stato italiano ha deciso di evitare i processi ai criminali nazisti in cambio del fatto che i criminali italiani non venissero processati. Questo fenomeno ha fatto sì che la Jugoslavia, che chiedeva la consegna di 750 criminali di guerra italiani, non ne abbia avuto neanche uno, e lo Stato italiano ha creato addirittura nel dopoguerra una commissione d'inchiesta per, come dire, scagionare tutti questi criminali di guerra che erano incriminati. Cioè praticamente una commissione parallela che doveva valutare se questi erano davvero criminali di guerra oppure no, e quindi poi dire allo Stato italiano sostanzialmente quali erano consegnabili nell'eventualità che dovessero per forza consegnarne qualcuno e quali invece bisognava per forza salvare, perché effettivamente anche dal punto di vista italiano non erano in nessun modo accusabili di crimini. Ecco, i lavori di questa commissione è stato valutato anche il caso di Vincenzo Serrentino, che era uno dei membri del Tribunale Straordinario per la Dalmazia. Vincenzo Serrentino, che era, quindi quel tribunale era colpevole di aver fucilato con processi sommari moltissimi partigiani jugoslavi, tra l'altro moltissimi casi anche non colpevoli nemmeno di operazioni di guerra, semplicemente di volantinaggio, propaganda, cose del genere. Allora, secondo la commissione d'inchiesta del 46, ripeto, stabilita per scagionare questa gente, Serrentino viene giudicato colpevole. Cioè la commissione d'inchiesta italiana dice no, vabbè, questo dobbiamo consegnarlo perché effettivamente è un criminale, ok? Tra l'altro un suo collega era stato fucilato in Italia un anno prima, a Roma, nel 45. Nel 2007 Vincenzo Serrentino ha avuto l'onorificenza come infoibato, perché nel frattempo era stato effettivamente processato dagli jugoslavi e fucilato in quanto criminale di guerra. Ora, è chiaro che questo è un caso limite, però noi stiamo creando una data memoriale nella quale, tra le altre cose, vengono consegnate onorificenze a persone infoibate, la cui maggioranza non sono criminali di guerra, per carità, ma moltissimi sono militari che combattevano contro l'esercito partigiano e che sono stati trovati in armi alla fine della guerra e imprigionati, e alcuni di loro sono stati fucilati. Non, ripeto, questo non vuol dire che sia giusto, però è un fenomeno che riguarda tutta l'Europa alla fine della guerra ed è, era nell'ordine delle cose all'epoca. Consegnare la medaglia a soldati che hanno combattuto fino all'ultimo in armi in nome del nazismo, dello sterminio di interi popoli e della Shoah, credo che sia piuttosto grave per lo Stato italiano. Scusa, finito. Grazie. Scusa un attimo, Maurizio. Siccome c'è una domanda da Pavia importante, che vedo è del Gipo Anfosso, che è anche uno scrittore, figlio di un partigiano importante della provincia di Imperia, pone una domanda impegnativa. Chiedo se è possibile dire in modo semplice quali sono i difetti storici della graphic novel per convincere la mia dirigente. A Pavia un consigliere comunale di Fratelli d'Italia la sta distribuendo nelle scuole. Io lo spaventerò parlando di casa editrice Casa Pound. E poi? Ecco qua. Dunque, sì, la graphic novel, tra l'altro, sì, viene effettivamente acquistata e distribuita in moltissime scuole del Nord Italia, sostanzialmente le regioni amministrate dal centrodestra, in Veneto, in Piemonte, in Lombardia, in moltissime scuole sta arrivando, come anche il film, tra l'altro. Tra l'altro, di nuovo, finanziando questi autori, nel caso della graphic novel, proprio una casa editrice vicinissima a Casa Pound. Ma qual è il problema? Quello che accennavo prima, cioè la vicenda di Norma Cossetto, che si vuole rappresentare come una vicenda esemplare di una vittima innocente delle foibe, è senz'altro la vicenda di una vittima innocente, però è la vicenda di una protagonista esplicitamente fascista che muore in nome dei suoi ideali fascisti. E questo credo che sia inaccettabile come esempio di una vittima innocente della Seconda Guerra Mondiale. Se si vuole raccontare, io dico spesso che negli ultimi anni è un po' cambiato, diciamo, il modo di raccontare la storia della guerra, anche giustamente, cioè si è posta più attenzione, meno l'attenzione, diciamo, sui combattenti, anche sui partigiani stessi, cioè sulla resistenza armata. E si posta invece più attenzione sulle vittime, o sulla resistenza pacifica, sulla resistenza senza armi. E questo è sicuramente interessante, ed è anche importante e utile. Cosa succede però? Che questo paradigma vittimista finisce per, in alcuni casi, nella sua apparente apoliticità, per presentare come vittime da onorare e da commemorare, appunto, e quindi diventare, trasformare in martiri, in eroi, persone che certo sono vittime innocenti, ma stavano dalla parte sbagliata, perché lo so che è un po' duro, è un po' diretto da affermare, però io credo che se tutti noi ci riconosciamo negli ideali dell'antifascismo e della resistenza, dobbiamo tranquillamente non aver paura di dire che nella Seconda Guerra Mondiale c'era una parte giusta e una parte sbagliata. E Norma Cossetto stava dalla parte sbagliata della storia, stava con i fascisti e stava con i nazisti, e quindi non può essere un eroe della nostra nazione. Questo mi sembra molto semplice. Siccome la storia è la storia di Norma Cossetto ed è rappresentata come l'eroina in cui tutti ci dobbiamo identificare, questo credo che sia inaccettabile. Poi, se vogliamo dirla tutta, nella graphic novel ci sono anche una quantità immensa di falsi storici. Potrei citare ogni pagina, praticamente c'è qualcosa che non va, ma insomma questo il territorio viene rappresentato come puramente italiano, si cita un'affermazione che avrebbe fatto Francesco Giuseppe nel 1866 che è notoriamente falsa, viene rappresentato lo stupro e la violenza subite da lei come se fossero vere, mentre invece non c'è nessuna fonte affidabile che le comprovi. Ci sono una serie numerosissima di falsi in diciamo racconti imprecisi in quella graphic novel, ma insomma il concetto di fondo secondo me è quello che ho appena detto. Bene, Maurizio, vai pure, poi seguirà il commento di Livio della nostra sezione. Non si sente la voce, Maurizio? Ah, si sente, sì, perfetto. Allora, partirei di che per gettare fango sui partigiani sulla resistenza tutte le occasioni sono buone. Tra l'altro penso che il crescere di questi fascismi, di queste, è direttamente legato a quello che sta avvenendo in campo più generale. La sconfitta un po' del movimento operaio, il neoliberismo che si è imposto in questi anni, purtroppo ha portato come conseguenza anche il dileggiare quasi la resistenza. Dà fastidio che durante il Covid gli italiani cantassero Bella Ciao, anche se è un canto che non è proprio il canto dei partigiani, ma è successivo, anche se è molto blando nel complesso, e la melodia forse prevale anche sullo stesso contenuto. Ma ha dato fastidio ai neofascisti, ha dato fastidio anche a molti, molti ben pensanti italiani. Io adesso faccio una considerazione e la chiedo anche a Eric, che mi sono fatto recentemente. I campi di sterminio erano delle enormi fabbriche che non solo producevano morte, ma producevano anche materiale industriale. Erano praticamente delle fabbriche che producevano per l'industria, quando non producevano in proprio. Non a caso gli internati venivano appellati come pezzi. Ora, il fascismo non è in contraddizione con il capitalismo, anzi, possono andare a braccetto, e lo sono stati durante il fascismo, e sotto in molti regimi lo sono ancora. Il regime comunista, anche i peggiori regimi comunisti, abbiamo visto Pol Pot, lo stesso stalinismo, non si ponevano la produzione con i prigionieri quale uno dei tanti obiettivi, perché gli obiettivi del nazismo erano sì sterminare gli ebrei come prima cosa, ma erano quello anche dello sfruttamento bestiale che veniva fatto di tutti gli internati. Prima che gli internati potessero morire di fatica, erano sfruttati fino al midollo. Questo è in relazione al fatto che sempre la resistenza si parla male, si prende spunto dalle foibe, in realtà perché si vuole gettare fango su tutta la resistenza, anche la resistenza italiana. Noi abbiamo avuto anche dei primi ministri della Russia, chiaramente fascisti negli anni di questa Repubblica. Non è vero, i comunisti non sono mai stati al governo, la sinistra con la S maiuscola non ha mai governato questo paese, però qualche responsabilità ce l'abbiamo. Una per tutte, l'amnistia Togliatti. Prima le compagne di Zamma citavano l'armadio della vergogna, ma anche l'armadio della vergogna è frutto di un certo clima politico. Non si è mai voluto andare fino in fondo con l'antifascismo. Purtroppo questa è una realtà di cui noi paghiamo, continuiamo a pagare le conseguenze. Per adesso mi fermo qua e poi riprendo un'altra cosa dopo, grazie. Eric, vuoi rispondere adesso? Leggo anche la domanda di Livio. Vai con la domanda. Allora, Livio ci chiede, nel suo libro che ho letto online, parla del silenzio sulle foibe nel dopoguerra, sia da parte del Partito Comunista che da parte della Democrazia Cristiana. Può chiarire meglio questo pensiero? Innanzitutto mi preoccupa che l'abbia letto online. No, scherzo, magari in ebook, immagino. Va bene, comunque. Allora, no, questo è appunto nel capitolo dedicato a questo tema, cerco di chiarire molto rapidamente la questione. Come dicevo, c'era un interesse bipartisan, no? Sia da parte del PC sia da parte dei partiti di governo, nel, diciamo, non affrontare questo tema. Dopo un breve periodo, in realtà nell'immediato dopoguerra e durante gli anni del primo esodo, in realtà c'è un utilizzo strumentale, politico della vicenda, e soprattutto bisogna dire dell'esodo, soprattutto in funzione anticomunista, cioè da parte dei partiti di governo, della DC, in particolare nelle prime tornate elettorali si utilizza questo tema tra gli altri per dimostrare, ecco, siccome questa gente fugge dal comunismo, evidentemente vuol dire che è un sistema fallimentare. Però, diciamo, passata quella prima fase, non è più, diciamo, nell'agenda politica, e quindi perde consistenza, non ha più una presenza pubblica questo tema. Perché non ce l'ha? Questa scomparsa comincia nel 1948, e quella è la data cardine, cioè nel momento in cui c'è una rottura politica internazionale tra Tito e Stalin. Quindi la Jugoslavia continua a essere un paese comunista, ma non è più un paese del blocco sovietico, non è più quindi un paese alleato col PC, che invece continua a essere alleato con l'Unione Sovietica, ok? Quindi dal 48 in poi la Jugoslavia viene identificata dal PC come il peggior nemico, perché sono comunisti traditori, e notoriamente, diciamo, nella logica, soprattutto nella logica stalinista, i comunisti traditori sono i peggiori di tutti, sono i primi da eliminare, ok? Quindi il PC identifica la Jugoslavia come il peggior nemico, per cui avrebbe tutto l'interesse a parlare di quanto è brutto stare in Jugoslavia, di che gli esuli se ne vanno perché gli jugoslavi sono cattivi, o addirittura delle foibe. In realtà non lo fa essenzialmente perché non gli conviene, perché comunque nell'opinione pubblica generale è comunque la Jugoslavia è percepita come un paese comunista, quindi comunque, diciamo, non c'è da vantarsi del fatto che la gente se ne vada da un paese comunista. E in secondo luogo, forse ancora più rilevante, non si parla delle foibe perché le foibe sono di fatto, come accennavo prima, una resa dei conti, e quindi sono un fenomeno simile a quello che è accaduto anche in Italia alla fine della guerra. Io vengo dal Piemonte, in Piemonte le vittime della resa dei conti, cioè delle uccisioni condotte dai partigiani contro fascisti, collaborazionisti, eccetera, subito dopo la guerra, sono in numero equivalente o addirittura maggiore rispetto a quelle del confine orientale. Quindi in tutta Italia è accaduto. Ma ovviamente era un tema di cui, diciamo, non c'era da vantarsi. E quindi il PC, che era il principale, diciamo, il partito che aveva rappresentato la parte maggioritaria della resistenza e che maggiormente negli anni del dopoguerra difendeva la memoria e i valori della resistenza, non aveva nessun interesse, diciamo, a mettere in cattiva luce il movimento partigiano, nominando quei fenomeni, anche se in quel caso i responsabili erano jugoslavi, per cui si è evitato di parlarne da parte del PC. Da parte della DC e dei partiti di governo, invece, la Jugoslavia dal 48 in poi diventa un importante paese, diciamo, alleato, anche se è un paese comunista, però è un paese che viene diciamo utilizzato come spina del fianco del sistema dei paesi del blocco del patto di Varsavia, e viene identificato soprattutto dagli Stati Uniti e di conseguenza dall'America, la cui sudditanza agli Stati Uniti nel dopoguerra, diciamo, è discutibile, almeno in politica estera, viene identificato come un utile alleato, e quindi non c'è nessun interesse nel sollevare polemiche o problemi confinari o qualunque altro tipo di questione con la Jugoslavia. E questo dura fino sostanzialmente all'89, alla fine del sistema della guerra fredda e alla fine della Jugoslavia, e poi le guerre jugoslave, che innescano invece un meccanismo completamente diverso che porterà poi alla giornata del ricordo. Direi che, cioè, il fenomeno grosso modo è questo. Perfetto, non ho nessun'altra domanda per adesso. Allora chiedo una cosa io. Tu prima di questa volontà di arrivare all'equiparazione tra 25 aprile e il 10 febbraio, come una volontà di parte neofascista, però io ricordo che durante l'ultima primavera, in una trasmissione di Gramellino, non guardo, quindi l'ho vista riportata, Walter Veltroni disse proprio che non si può celebrare pienamente il 25 aprile se non si partecipa anche con piena coscienza alle celebrazioni del 10 febbraio. Quindi lo spirito bipartisan, anche su un terreno più scivoloso di quello precedente, continua. Allora, guarda, io penso, non so che cosa avesse in mente Veltroni, però io penso una cosa che secondo me è importante dire, cioè noi non dobbiamo avere paura di questa vicenda, cioè è certamente è importante celebrarla. Io non credo che sia sbagliato di per sé il giorno del ricordo. Il giorno del ricordo va visto per quello che realmente dovrebbe rappresentare, cioè la memoria di un dramma, un evento drammatico che ha colpito anche parte di popolazione italiana in un'area molto complessa e un fenomeno che ha aspetti molto complessi. Non a caso il testo della legge parla di commemorare le vittime delle foibe, dell'esodo e della più complessa vicenda del confine orientale. Ora, questa complessa vicenda del confine orientale, di cui invece nessuno vuole parlare mai, è il punto fondamentale, perché quella è una vicenda complessa e che va ricordata in tutta la sua complessità. Ma questo non ci deve neanche però portare a dire vabbè, ma in fondo non è successo niente, perché dobbiamo parlarne, chi se ne frega, perché invece qualcosa è successo davvero e in qualche modo delle responsabilità i partigiani ce le hanno, e questo dobbiamo dirlo forte e chiaro, cioè i crimini sono stati realmente commessi. Io adesso non mi dilungo su questo, non mi pare il caso, nel libro è spiegato ampiamente che cosa sono nel concreto quei due fenomeni di violenza del 43 e del 45, e comunque sono fenomeni ingiustificabili con gli occhi di oggi naturalmente, ma che avevano un senso nel contesto in cui sono accaduti e quindi dovrebbero essere letti nel loro contesto, appunto con sguardo storico, con un'ottica da storici, non sull'onda dell'emotività del 2021, quando abbiamo un'esperienza di vita diversa e uno sguardo diverso sulle cose e sul senso della violenza e della violenza politica. Però ecco, ammettere, forse questo Veltroni spero volesse dire, ammettere che ci sono stati davvero dei crimini in quel contesto non significa negare i valori che animavano le persone che hanno commesso quei crimini, che sono valori che devono e devono rimanere intoccabili, perché sono i valori fondanti della nostra democrazia e della nostra Repubblica. Io vorrei citare, scusate, forse può sembrare un po' retorico, una frase di Italo Calvino che secondo me racchiude il senso di questo concetto che vorrei ribadire, che dice, forse la conoscete, probabilmente la conoscete tutti, dietro il milite delle brigate nere più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni, l'olocausto. Mentre dietro il partigiano più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società più pacifica, più democratica e ragionevolmente più giusta. E questo è il punto da cui non si può sgarrare, secondo me. Maurizio, vai pure con i tuoi accenni al film Redland. Nelle peggiori... Pardon, mi senti adesso? Anche nelle peggiori forme di comunismo, rispetto alle altrettante forme aberranti di fascismo, che comunque i comunisti non hanno nel loro DNA la sopraffazione. Lo hanno fatto in determinate epoche storiche, però non fa parte del DNA, mentre è parte connaturata del DNA di tutte le forze fasciste, neofasciste, passate e presenti. Beh, questo mi sembrava così una cosa che mi premeva a dire. Tra l'altro leggendo il tuo libro, io ricordavo che da ragazzo io parlavo spesso con un lavorante del negozio di barbiera di mio zio, che veniva da Pola. Lui era un povero Cristo, aveva un negozio a Pola di barbiera ed era scappato, probabilmente non perché era fascista, assolutamente non lo era, spaventato, condizionato, tutti scappavano, è scappato anche lui in sintesi, ma era uno che veramente aveva lasciato la propria terra, che rimpiangeva sempre, e non ha avuto senz'altro neanche come dire, non si è mai sentito tutelato neanche dal governo italiano. mi è venuto in mente proprio leggendo questo libro, mettendo questo personaggio col quale discutevo, vabbè. Io adesso volevo dire due parole, e ho avuto il coraggio di vedere Red Land, che è un film veramente tremendo. Tremendo perché questo film va nelle scuole, c'è uno stupro di massa, no? Di una violenza che io ho girato lo sguardo da un'altra parte. Io mi chiedo a dei ragazzi, perché non è vietato ai minori di 14 anni, a dei ragazzi che viene a scuola, che viene mostrato un prodotto del genere, quale può essere la loro reazione? Al di là del fatto in sé, eccetera, ma proprio mostrare una violenza di gruppo su una donna, uno stupro di gruppo. Poi dopo questa donna, dopo che essere stata stuprata, viene gettata viva in una foiba. Ecco, questo film tremendo è stato realizzato in collaborazione con la RAI, con il sostegno della Regione Veneto, col Treviso Film Commission e, mio stupore, realizzata con il sostegno della Regione Lazio, anche la Regione Lazio ha tirato fuori i soldi, in collaborazione, vabbè, con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e col contributo del Ministero dello Spettacolo. Questo è il quadro in cui si è girato questo film, in cui i fascisti sono quelli che realizzavano la quiete sociale, dando il benessere alla regione in cui operavano, mentre i partigiani erano dei criminali assetati di sangue. I tedeschi non erano, sono vengono un po' a, come dire, sono, a quanto ho capito, si vuol far credere che tutto sommato i fascisti non erano proprio alleati con i tedeschi, erano alleati ma non più di tanto. E poi a livello cinematografico c'è una cosa veramente penosa, perché a un certo punto arrivano i tedeschi, uccidono una donna, una ragazza che secondo loro era una partigiana, poi prendono le altre quattro donne che si erano ribellate, le mettono al muro e si presume che vengano fucilate. No, stacco, cioè non fanno vedere la fucilazione dei tedeschi verso delle donne inermi che vengono messe al muro, mentre la violenza è tutta da parte dei partigiani titini. Ora, che un film del genere sia stato presentato in Senato, di fronte ai senatori, che in internet ci sono le fotografie di Franco Nero, del regista, insieme al nostro ex presidente del Consiglio, questo è abbastanza grave, insomma, va al di là del buon gusto, è proprio una scelta di ignoranza politica, direi, inqualificabile. Il nostro Giuseppi si è fatto fotografare lì, aveva visto il film, non ha obiettato, non è che si è alzato e se n'è andato, è rimasto lì, l'ha visto, si è fatto fotografare. Questo è veramente, veramente pietoso. Io non so, bisognerebbe perlomeno tagliare la scena, poi il resto, ognuno la pensa come vuole. Ma questo stupro di massa con questa donna legata a un tavolo, effettivamente mi sembra non indicato per dei ragazzi, è proprio una roba che fa pugni con qualsiasi etica. Grazie. Io ho altre due domande, però prima darei una risposta. Cosa dici, Eric? Ma no, non saprei che cosa aggiungere, nel senso, forse l'elemento ulteriore che si può dire è che oltretutto quello stupro non ci sono testimonianze certe che sia avvenuto, quindi ribadisco, la vicenda di Norma Grossetto è una vicenda proprio del tutto strumentalizzata politicamente, una vicenda su cui non si sa praticamente nulla, non ci sono fonti, non c'è nessuna certezza che sia avvenuta in quei termini come viene rappresentata, però si insiste costantemente su questi elementi di cui non c'è certezza, e per di più appunto diventa una figura di martire nazionale, una persona che comunque è esplicitamente, come E in questo caso giustamente è rappresentata nel film. Il film non, diciamo, non si fa problemi a rappresentare la famiglia Cossetta come una famiglia fascista, è chiarissimo, nel film viene rappresentato in maniera molto evidente questo aspetto, no? Quindi appunto ti identifichi con una famiglia fascista, vittime fasciste, e tutto ciò che avrebbe subito una violenza di cui non si sa nulla, e tutto ciò è rappresentato come del tutto normale. Io credo che sia appunto inaccettabile, cioè vogliamo ricordare una vittima della guerra, ne abbiamo una vittima innocente della guerra, ne abbiamo centinaia di migliaia, bombardamenti, stragi nazifasciste, ne abbiamo quante ne vogliamo di donne inermi uccise dai fascisti, partigiane violentate, torturate dai nazisti, quante ne abbiamo? Perché non celebriamo quelle? Figure che sono morte in nome della libertà, della democrazia, dell'antifascismo. Perché scegliamo invece di celebrare una persona che è morta in nome del fascismo? Con rispetto che ho, e ribadisco, che bisogna avere per una vittima innocente, perché comunque è una vittima innocente, qualunque cosa le sia successo, però non può essere un eroe dello Stato italiano, questo è il punto. Allora c'è una domanda di Edgardo che vuole ragguagli sui campi di concentramento in Italia per sloveni e croati. Grazie, Edgardo lo fa apposta, mi fa un assist. No, vabbè, io mi sono occupato, ho scritto ben due libri, diciamo, sull'occupazione italiana in Jugoslavia. Credo che sia una, appunto, come dicevo prima, una delle questioni meno conosciute e più rilevanti della storia del nostro rapporto tra Italia e Jugoslavia, tra italiani e jugoslavi, la vicenda dei crimini commessi, in particolare appunto l'esercito italiano che fatica a combattere la resistenza jugoslava, reagisce con una serie di rappresaglie, cattura di ostaggi, fucilazioni, rastrellamenti, diciamo una strategia molto simile a quella che poi verrà adottata dai tedeschi in Italia durante l'occupazione dopo l'8 settembre, che quindi conosciamo perfettamente, ma l'aspetto forse più caratteristico dell'occupazione italiana in Jugoslavia è proprio quello della creazione di campi di concentramento. Sono circa 100.000 gli jugoslavi che vengono internati nei campi di concentramento italiani. Non sono campi di sterminio, naturalmente, non ci sono camera gas, non c'è la volontà di uccidere la gente, però di questi 100.000 circa 5.000, quindi una percentuale comunque significativa, muoiono di fame, di stenti, di malattie all'interno dei campi di concentramento italiani. Il campo più grave, più conosciuto, dove c'è il maggior numero di vittime è il campo di Arbe, che non è distante da Fiume, tra l'altro, quindi siamo sempre in quell'area geografica più o meno, dove muoiono 1.500 civili, in gran parte donne e bambini. Sono praticamente tutti civili gli internati nei campi di concentramento, perché i partigiani vengono di solito fucilati immediatamente. Si tratta proprio di deportare popolazioni che vivono nella zona dove è attiva la resistenza per togliere il supporto alla resistenza. Quindi con strategie repressive appunto tipiche dei fascisti e dei nazisti. Io penso che sia, di nuovo, se vogliamo parlare della complessa vicenda del confine orientale, ecco, sarebbe forse ora di riconoscere questi crimini ufficialmente, cosa che lo Stato italiano di fatto non ha mai fatto, scusate il gioco di parole, e magari quest'anno, che è l'80° anniversario dell'invasione dell'Italia, da parte dell'Italia e della Jugoslavia, potrebbe essere l'occasione per cui il nostro presidente si rechi magari al campo di Arbe a dire due parole di scusa su quel crimine. Io nel mio piccolo sto facendo un crowdfunding per creare un sito che quindi consenta la consultazione di documenti e informazioni sul campo di Arbe, e anche l'organizzazione di viaggi della memoria al campo di Arbe. Io credo che sarebbe molto utile per la nostra memoria storica che i nostri ragazzi, ma anche gli adulti, vadano in visita al campo di Arbe si rendono conto appunto di quello che è accaduto lì durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora passo a un'altra domanda di Marco Cavina, un altro esponente del nostro gruppo di lavoro sulla memoria, che chiede: che ruolo hanno avuto i partigiani italiani a fianco degli jugoslavi e come sono stati accolti alla fine della guerra? Ci sono stati movimenti anarchici? Che ruolo hanno avuto? Sui movimenti anarchici non capisco bene la domanda, però sostanzialmente no, può dire molto con una parola sola. Invece per quanto riguarda i partigiani italiani in Jugoslavia, questo sì, non l'ho tralasciato prima, però effettivamente è un tema molto interessante, perché dopo l'8 settembre ci sono decine di migliaia di italiani che entrano nella resistenza jugoslava, sia nei territori di confine di cui stiamo parlando dopo l'8 settembre, sia ex soldati per non farsi deportare dai tedeschi, sia invece persone residenti in quelle aree entrano nella resistenza, che ovviamente è una resistenza jugoslava, e quindi entrano a far parte del movimento partigiano jugoslavo. Ma i numeri più significativi in realtà sono dati da ex soldati che nella zona, diciamo, sia in Montenegro sia nella Dalmazia meridionale entrano nella resistenza jugoslava e formano addirittura due divisioni partigiane. La più importante è sicuramente quella a cui è dedicato il libro prima di questo, che si chiama La resistenza dimenticata, non a caso, perché appunto sono anche queste storie ben poco conosciute, nonché il documentario Partisani, in cui racconto la storia della divisione Garibaldi, cioè questi 20.000 soldati italiani in Montenegro che scelgono appunto di resistere ai tedeschi, entrano nella resistenza di Jugoslavia, creano una vera e propria divisione, e di questi 20.000 circa 10.000 sono caduti durante la guerra partigiana. Quindi stiamo parlando di numeri straordinariamente grandi, anche di caduti, a cui di nuovo lo Stato italiano non ha prestato nessuna attenzione e continua a non prestargliela. L'unico monumento di questa vicenda vero e proprio è in Montenegro. Io tra l'altro organizzo, tra le altre cose, viaggi della memoria anche in Montenegro legati a questa vicenda, quando si potevano fare, spero di poterli fare di nuovo. Aggiungo soltanto che può sembrare incredibile, ma forse detto in una sede dell'ANPI mi vergogno a dirvelo, però probabilmente lo sapete già, ma insomma nella primavera del 44, quindi prima della grande, diciamo, estate partigiana, nella primavera del 44 il numero di partigiani italiani nella resistenza jugoslava tra appunto l'Istria, la Dalmazia, il Montenegro, era praticamente equivalente al numero di partigiani italiani in Italia. Poi dopo in Italia aumenta il numero di partigiani, per carità, però in quel momento circa tra le 30 e 40 mila. Quindi stiamo parlando di cifre straordinariamente grandi e di un fenomeno storico molto rilevante, che è stato completamente dimenticato appunto nella nostra memoria pubblica, e che tra l'altro già da solo smentisce la tesi della pulizia etnica o della volontà di sterminio degli italiani da parte degli jugoslavi. Se avessero voluto sterminare tutti gli italiani, potevano cominciare dai 30.000 che erano all'interno del loro movimento di resistenza, visto che ce l'avevano lì a portata di mano. Guarda un po', non l'hanno fatto. Grazie. Adesso, prima di passare alla domanda di Michelino, che non l'ho ancora visto, volevo precisare, se magari tu dici qualcosa, sul fatto che un campo di sterminio esisteva in Italia ed era la Risiera di San Sabba. Sapendo che pochi conoscono questa realtà, se puoi dire due parole. Sì, diciamo che rispetto ad Arbe la Risiera di San Sabba è molto più conosciuta. Cioè, banalmente, io che appunto dicevo accompagno viaggi della memoria di vario genere, negli anni sono stato diverse volte a portare gruppi di studenti alla Risiera di San Sabba, e ce n'è praticamente ogni giorno. Ad Arbe credo di aver portato forse l'unico gruppo di studenti negli ultimi 20 anni, forse nella storia di Arbe in assoluto. Quindi la differenza tra le due tra le due cose è molto grande. È anche molto grande, però, va detto, l'importanza storica, nel senso che la Risiera di San Sabba è un campo, è un vero e proprio campo di sterminio, ovvero è un campo che ha degli aspetti di sterminio, perché c'è anche un forno crematorio e perché c'è l'intento di ammazzare volontariamente la gente all'interno del campo. In quel caso, in realtà, gli ebrei, cioè per gli ebrei viene utilizzato come campo di transito per la Polonia, mentre invece lo sterminio lì viene condotto soprattutto nei confronti di partigiani, partigiani slavi, ma in realtà anche italiani, e sono migliaia le vittime della Risiera di San Sabba. Quindi è sicuramente un fenomeno storico importante da ricordare, effettivamente poco conosciuto. E considerato l'unico campo di sterminio presente in Italia, è anche vero, diciamo, vanno sottolineati due aspetti. Il primo è che non è esattamente un campo di sterminio, perché appunto ci sono pratiche di sterminio, ma non è solo un campo di sterminio. E in secondo luogo, non è propriamente l'Italia, perché quell'area non era Italia in quegli anni, cioè poi il 43 e 45 viene amministrata direttamente dai nazisti come diciamo territorio di occupazione. Questo anche per dire che anche le forze armate italiane che combattevano in quell'area erano poste agli ordini diretti dei nazisti, quindi non erano nemmeno soldati della Repubblica Sociale, erano soldati agli ordini dei nazisti, combattevano direttamente agli ordini dei nazisti. Grazie. Ecco, arrivata la domanda di Michelino. Allora, quest'anno il tuo libro ha generato un certo clamore e dibattito su dei media e social, molto attaccato da destra, ancora prima dell'uscita, con le solite accuse di negazionismo, termine che paradossalmente viene ormai usato dai neofascisti. Il libro sta vendendo molto, destinato a chi non ne sa molto. Obiettivo è quello del fact-checking per smontare la vulgata neofascista. L'ho letto, apprezzabile. Ovviamente le accuse del negazionismo sono, e qui termina. Beh, mi sembra più un commento che una domanda, no? Che l'ha fatta in realtà Luigi Lusenti. Abbiamo un'altra domanda di Edgardo. Vabbè, se vuoi parlare dei commenti di come è stato accolto il tuo libro prima, forse. No, ho niente da dire, effettivamente grazie, vuol dire che evidentemente è piaciuto, non ho altro da aggiungere. Diciamo, è scontato che abbia, diciamo, che riceva un'attenzione così grande dall'estrema destra e così aggressiva, me lo aspettavo, ed è diciamo, fa parte della logica del fatto che per loro, cioè per quella parte politica, giornata del ricordo e tutta questa costruzione simbolica costruita intorno a quello è fondamentale, politicamente fondamentale. Anche per questo dobbiamo lavorarci, secondo me, non dobbiamo tirarci indietro, dobbiamo difendere questa trincea, perché è una trincea politica importante, perché per loro vuol dire il riconoscimento politico, vuol dire acquisire consenso, vuol dire usare strumentalmente la vicenda per... come dire, cambiare la testa della gente su certe valori, per cui dobbiamo davvero lavorarci, e io spero che questo libro possa servire nella sua semplicità, nella sua facilità, nell'essere un libro appunto leggibile da chiunque e facilmente comprensibile, possa servire come strumento di autodifesa, lo definirei, contro questa propaganda neofascista. Grazie. Abbiamo un'altra domanda sempre di Edgardo. Parliamo di Basovizza, monumento nazionale. La domanda è finita. Dunque, ma su Basovizza cosa si può dire? Non c'è la certezza che a Basovizza ci sia. Allora, Basovizza è una località vicino Trieste, è stata scelta appunto come luogo della memoria, diciamo, delle foibe dell'esodo, e quindi ogni anno di solito si fanno lì le celebrazioni, o comunque alcune figure istituzionali si recano a Basovizza per celebrare il giorno del ricordo. E non è un luogo particolare che ha una serie di problemi. Innanzitutto non è una foiba tecnicamente, ma è un posto minerario. Dopodiché non c'è la certezza che lì siano state davvero gettate delle vittime delle foibe. Gli unici corpi che sono stati trovati sono corpi di soldati tedeschi che probabilmente sono stati sepolti lì perché lì si è combattuta una delle ultime battaglie prima della liberazione di Trieste, e quindi i corpi di soldati tedeschi sono stati sepolti nel pozzo. Però è stato comunque scelto come luogo della memoria per ragioni, secondo me, di comodità. Era vicino a Trieste, vicino all'autostrada, si trova in Italia, che è una dei pochi luoghi, perché la maggior parte delle foibe in realtà si trovano fuori dall'Italia, quindi questa, secondo me, le motivazioni della scelta sono sostanzialmente queste. Non so quanto ci sia stata la consapevolezza o meno del fatto che però Basovizza era già un luogo della memoria, prima per la Jugoslavia e oggi soprattutto per la Slovenia, perché a Basovizza nel 1930 vengono fucilati tre attivisti jugoslavi che sono considerati appunto dalla Jugoslavia prima e dalla Slovenia oggi, diciamo, una sorta di primi partigiani che combattevano contro il fascismo, che sono caduti come antifascisti, appunto fucilati dopo un processo del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, i cosiddetti quattro martiri di Basovizza. E quindi in qualche modo è risultata subito una provocazione dall'altra parte del confine la scelta proprio di Basovizza come luogo della memoria invece di una storia speculare dall'altra parte. Dopodiché devo dire, quest'anno ad esempio la visita congiunta che è stata fatta da Mattarella e Pahor, il presidente sloveno, a Basovizza, in cui si sono recati a entrambi i monumenti, ha in qualche modo, intanto per la prima volta, ha dato visibilità al monumento jugoslavo, di cui nessuno credo in Italia sapesse nemmeno l'esistenza, e poi insomma ha significato anche un minimo di volontà di riconoscimento reciproco, diciamo, delle rispettive vittime. Dopodiché io credo che in quell'occasione si sarebbe dovuto di nuovo, ripeto, scusate, parlare dei veri crimini commessi dall'Italia in quei territori, e quindi essenzialmente dei crimini di guerra durante la seconda guerra mondiale, commessi durante la seconda guerra mondiale, più che di quelle quattro vittime che tutto sommato sono meno significative da un punto di vista storico. E quindi la visita andava fatta piuttosto ad Arbe, piuttosto che a Basovizza, da parte di Mattarella. Ma insomma, ripeto, magari quest'anno ci andrà, quindi non smettiamo di sperare, ecco. Ho un'aggiunta ancora di Michelino. Ci tengo a precisare che mi arrivano spezzate le sue domande, cioè con il finale, con i puntini, e cerco di capire il senso della continuazione. Ho trovato però non condivisibile, e introduciamo un elemento di contraddizione finalmente, la tesi di Gobetti secondo la quale le violenze jugoslave non avrebbero avuto alcuna logica nazionale ma solo politica. Non si capisce, secondo questa logica, perché molti antifascisti, comunisti istriani di sentimenti italiani, vennero discriminati, perseguitati e a volte anche assassinati. Le violenze nei confronti degli antifascisti che non accettavano la sovranità jugoslava, a mio avviso, e non solo mio, ebbe una matrice nazionale, e qui mi si spezza. Comunque il senso della prima parte mi sembra... Sì, ma credo che sia la stessa persona che mi ha scritto oggi su Facebook, e ho già risposto su Facebook, quindi ripeto la risposta che ho dato oggi. Nel libro io spiego, credo, abbastanza chiaramente come ci sia la volontà da parte del regime fascista di assimilare italianità e fascismo. Questo in generale, diciamo, in tutta Italia, ma sul territorio di confine a maggior ragione. Se si era veri italiani solo se si era fascisti, e se si era fascisti si era necessariamente italiani. Questa volontà di assimilazione ovviamente ha poi un effetto nelle violenze che avvengono dopo, nel senso che è chiaro che anche da parte dei partigiani jugoslavi c'è poi una spesso un'identificazione tra le due figure, per cui le istituzioni italiane sono per forza istituzioni fasciste anche dopo il 25 luglio, per intendersi, oppure rappresentanti più in vista della comunità italiana vengono comunque percepiti come fascisti, perché erano avevano avuto comunque un riconoscimento pubblico, una presenza pubblica importante durante l'epoca fascista. Quindi sicuramente gli aspetti diciamo nazionali e politici si intersecano in quest'area, non c'è dubbio. Quello che io però sottolineo, e sottolineo nel libro e sottolineo anche adesso e ripeto, ho già scritto oggi su Facebook, è che indubbiamente comunque non c'era nessuna volontà di pulizia etnica, non c'era nessuna volontà di colpire gli italiani in quanto tali, si colpivano gli italiani in quanto fascisti, non tutti gli italiani. I casi di antifascisti che ci sono, che sono vittime delle violenze in particolare del 45, sono casi rarissimi, vanno sicuramente considerati e hanno a che fare in questo caso non tanto con la resa dei conti, che è il macro fenomeno, ma con un altro aspetto che però è comunque presente in quell'area e differenzia quest'area dal resto dell'Europa e per esempio da altri fenomeni simili di resa dei conti che avvengono nel resto d'Italia, e cioè la volontà di instaurazione di un nuovo regime in quest'area, che è un regime comunista di stampo stalinista in quel contesto, ma è anche un regime jugoslavo, cioè la volontà di annettere questi territori alla Jugoslavia. E quindi tra le vittime ci sono anche persone che erano contrarie a questo progetto e vengono colpite con una sorta di repressione politica preventiva, si colpiscono le persone più in vista che potrebbero rappresentare un pericolo per il nuovo sistema, appunto in quanto anti-jugoslavi e anticomunisti. E quindi in questo senso ci sono anche vittime antifasciste, ci sono addirittura membri del CLN, ex partigiani, che vengono arrestati e vengono uccisi proprio perché rappresentano un pericolo per questo nuovo progetto. Di nuovo, ripeto, non dobbiamo nasconderci questi fenomeni, vanno ricordati perché vanno ricordati gli errori che sono stati commessi, io credo anche politicamente, al di là di umanamente, credo che questi possono essere considerati errori, ma questo non nega diciamo quello che è il fenomeno nel suo complesso. Grazie. Terminava così, per correttezza, la domanda di Michelino. Chiamava in causa lo storico Giacomo Scotti, che scrisse di un nazionalismo camuffato da internazionalismo proletario. Ecco. Poi segue, vuoi dire qualcosa? No. Segue un'altra domanda di Livio. Tu, Erika, hai parlato dell'esodo di 12 milioni di tedeschi dall'Europa orientale e per anni diverse organizzazioni revanchiste sono state attive nella Germania federale. Esiste una realtà simile alla giornata del ricordo in altri paesi europei? Ma dunque, devo dire, è una domanda veramente interessante e non credo di essere in grado di rispondere. So che in Germania se ne è lungamente parlato, tra l'altro credo che la Merkel sia una figlia di profughi credo dalla Lettonia o dalla Lituania, da un paese baltico, e quindi lei stessa ha particolarmente a cuore questa vicenda. In Germania se ne è parlato appunto, però se ne è parlato sempre in termini diciamo il più possibile non revanchisti, appunto con l'idea di evitare in ogni modo di avere toni nazionalisti o appunto di ribadire l'appartenenza tedesca di territori vicini alla Germania. Teniamo anche presente che la Germania, a differenza nostra, con tutte le sue difficoltà e con fatiche dopo tanti decenni, però ha ampiamente riconosciuto le sue responsabilità in guerra, ha ampiamente riconosciuto i crimini commessi, tra l'altro i crimini commessi non solo dall'SS, dal regime, ma anche dallo stesso esercito tedesco, e insomma credo che diciamo i conti fatti con la storia in Germania siano stati fatti molto più approfonditamente rispetto a quanto abbiamo fatto noi, anche banalmente per l'esistenza di un processo di Norimberga, che con tutti i suoi limiti ha comunque avuto un significato simbolico rilevante. Quel processo analogo a quel processo non c'è mai stato in Italia. In Giappone c'è stato il processo di Tokyo, in Germania il processo di Norimberga, in Italia un processo del genere non si è mai tenuto. Non ho nessun'altra domanda. Solleciterei il collettivo ZAM, che so essere la nostra Kronstadt del Municipio 5. Sì, in realtà un'ultima domanda ce l'avremmo. Ci stavamo chiedendo come mai dopo il 45 con il nuovo insomma, c'è stata una disparità di trattamento tra gli esuli, chiamiamoli esuli tutti e due per facilitarmi la domanda, tedeschi e italiani, cioè entrambi sono stati costretti a lasciare la Jugoslavia, però ai tedeschi è stato dato meno opportunità rispetto agli italiani, ma come si spiega questa differenza? Erano comunque due eserciti di occupazione. Grazie. Dunque, sì, l'atteggiamento jugoslavo nei confronti delle minoranze molto significative presenti in Jugoslavia, di italiani e tedeschi, è stato molto, molto diverso. E tra l'altro è uno degli elementi che ci aiuta a dire che l'esodo degli italiani da quelle terre non è stata un'espulsione, perché nei confronti dei tedeschi c'è stata invece una vera e propria espulsione a norma di legge, cioè i tedeschi sono stati prima internati in massa e poi espulsi forzatamente dalla Jugoslavia, cosa che non è assolutamente accaduta nei confronti degli italiani, verso i quali invece si è cercato diciamo di trattenerli all'interno della Jugoslavia. Perché questa differenza? Questa è una bella domanda. In realtà ci sono tante motivazioni. Io ne accennerei due. La prima è che, diciamo, fin dall'inizio, cioè già nel corso della guerra, quindi tra il 41 e il 43, quando la Jugoslavia viene invasa e smembrata e occupata dagli eserciti, appunto Italia e Germania e anche altri eserciti, nei confronti dell'esercito italiano i partigiani jugoslavi hanno un atteggiamento particolarmente diciamo accogliente, nel senso che la stessa propaganda partigiana sostiene che di fatto i soldati italiani siano vittime del loro stesso regime e che quindi vanno aiutati a liberarsi dai propri comandanti e dal regime fascista e portati dalla parte dei partigiani. È una scelta, diciamo, politica ben precisa, che non ha riscontro nei confronti, per esempio, dei tedeschi, che invece vengono percepiti come nemici e basta, insomma. Il che fa anche sì che quando gli italiani vengono presi prigionieri dai partigiani, ad esempio, vengono trattati sempre molto bene, addirittura all'inizio vengono spesso liberati, si cerca di convincerli a passare dalla parte della resistenza, se non ci si riesce vengono liberati, in un secondo tempo vengono trattenuti come prigionieri ma comunque trattati civilmente e comunque mai fucilati, cosa che invece non fanno gli italiani, che quando prendono i prigionieri i partigiani invece li fucilano senza tante questioni. Ed è molto particolare questo, sicuramente c'è un atteggiamento appunto molto diverso fin dall'inizio. Dopodiché l'atteggiamento diventa, secondo me, ancora più positivo dopo l'adesione di quelle decine di migliaia di partigiani italiani alla resistenza jugoslava, cioè dopo l'8 settembre del 43. Intanto, vabbè, è chiaro che ovviamente l'Italia, essendo uscita dalla guerra 2 anni prima rispetto alla Germania, ha comunque un trattamento di favore, un trattamento diverso rispetto alla Germania in generale, non soltanto da parte degli jugoslavi, globalmente, anche in generale i paesi antifascisti che vincono la guerra si comportano nei confronti dell'Italia in maniera molto meno punitiva rispetto alla Germania. Ricordiamo che la Germania viene divisa in due paesi, il territorio viene praticamente dimezzato rispetto a quello anteguerra, insomma c'è un trattamento decisamente punitivo che l'Italia non ha. Ma appunto nel caso jugoslavo c'è questo ulteriore elemento, che è quello della resistenza italiana all'interno della Jugoslavia, cioè quei 30-40 mila italiani che combattono nella resistenza jugoslava contano qualcosa, perché lasciano agli jugoslavi l'idea che in fondo avevano ragione. È vero che gli italiani in fondo erano, scusate il gioco di parole, brava gente, non voglio riprendere quello stereotipo, ovviamente è chiaro che è uno stereotipo su cui noi stiamo lavorando per smontare, diciamo. Però non vale neanche il discorso contrario, cioè non erano nemmeno cattivi, gli italiani erano normali e in quella circostanza un buon numero di italiani hanno scelto di stare dalla parte della resistenza. E questa scelta è stata una scelta riconosciuta dal governo jugoslavo e credo che nell'atteggiamento così accogliente nei confronti degli italiani alla fine della guerra ci sia, rispetto appunto al rapporto con i tedeschi, ci sia sicuramente anche questo elemento. Io vado tutti gli anni appunto in Montenegro a accompagnare questi viaggi della memoria rispetto alla storia dei partigiani che hanno combattuto lì. Vi assicuro che ancora oggi in Montenegro c'è il massimo rispetto nei confronti della memoria di quella vicenda. Ripeto, una vicenda da noi completamente dimenticata, ma che lì ha lasciato una memoria fortissima. Cioè, tutti conoscono il luogo di questo monumento, tutti sanno la storia dei partigiani italiani che hanno combattuto lì, tutti hanno un massimo rispetto, quasi dimenticando appunto i crimini commessi in precedenza. In qualche modo quella vicenda ha scagionato anche, se vogliamo, i crimini commessi in precedenza, però ha anche favorito, ecco, una memoria positiva degli italiani in generale in Jugoslavia. Quindi in qualche modo dobbiamo essere grati al sacrificio dei nostri partigiani anche per questo. Grazie. Insomma, io andrei verso la chiusura. Se non ti dispiace, Eric, se non vuoi aggiungere qualcos'altro prima, no? E do la parola per la chiusura alla nostra presidentessa Michela Fiore. Sì, grazie, ma direi che mi sembra, intanto mi spiace per Ampi Ortica che è disperso, evidentemente aveva problemi di connessione per cui non è riuscito a partecipare. Con questo comunque ringrazio in particolare Eric. Devo dire che la semplicità e la chiarezza dello scritto si ritrova anche nell'esposizione, è estremamente piacevole e utile. Ritengo che iniziative come queste debbano essere sempre più frequenti anche nella nostra associazione, anche con la collaborazione di altre realtà che si richiamano all'antifascismo, perché sono fondamentali per formarci e informarci su vicende soprattutto come questa, che vanno affrontate, sono vicende non facili che comunque vanno affrontate. Con questo direi che possiamo chiudere. Ringrazio veramente tutti, ringrazio Eric ancora una volta e alla prossima. Grazie. Grazie mille. Buona serata. Buona serata. Buona. Ciao. Ciao. Ora è ciao, ciao, grazie. Ciao Cecilia. Aspetta, vediamo se riusciamo ad attaccarci. Perché l'inizio è stato difficoltoso, ma la fine andrà liscia. Ma la fine è uno splendore. Non so neanche se stiamo. No, sì, mi sento tutto adesso. È discesa. Beh, niente, che bello, è stato molto bello. Noi ringraziamo l'Ampi di zona, ringraziamo anche l'Ampi 25 aprile, ringraziamo anche l'Ampi Ortica, non dimentichiamoci dell'Ampi Rolando, dove sei finito? Ci prossimamente ci darà sue notizie e niente, no, vabbè, dai, è stato molto interessante. Comunque ringraziamo Cecilia che ha reso possibile questa cosa. Ringraziamo anche Raffaele che è il mastro delle chat, boss supremo. E tra l'altro questo è il primo. Questo potrebbe essere un primo di una lunga e interessante serie di incontri storici. Vedi. Quindi praticamente una volta al mese noi ci ritroviamo qua, amici della radio, amici dell'Ampi, amici del collettivo Azzam, non amici, ascoltatelo anche voi che magari imparate qualche cosa. E quindi ci rivediamo presto su questi schermi praticamente, giusto? Oh, yes. Mi confermi? Of course. A marzo possiamo aspettarcene un altro? Ma penso di sì, eh. Vero? Sì. Vero? Ce ne sarà uno al mese. Ce Anche ne sarà uno al mese. forse di più. Stasera ho avuto delle anticipazioni. Beh, Si è una production. Tra l'altro, se volete iscrivervi all'AMPI di Stadera, fatelo scrivendogli alla pagina e andate a recuperare la vostra tessera e andate a fare parte del gruppo Memoria. Memoria, Giusto? sì. Il gruppo Memoria. E niente, bello, molto bello, bello. Adesso sto facendo impazzire la radio con un SMS, perfetto. E tanto per chiudere e basta. Quindi adesso sono le 10:20, c'è il coprifuoco, bravi, grazie, è stato bello e salutiamo tutti. Vuoi mettere una canzone? Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Possiamo vedere se ce l'abbiamo, ma Ma sì, dai. chi lo sa. Mettiamo una canzone, dai, come ai vecchi tempi, così salutiamo così. Che canzone vorresti mettere, carissima? Non L'erba è... della giovinezza, Narcos, No, possiamo Che anche ragazzo provare della a via Gluck, selezionarla un po' più in là. Pantera. Guarda, guarda, qua mi sa Chi che ci c'è? siamo. Dalle belle città mi sembra che vada bene. Urca. E Tra vai, l'altro, dai. questa secondo me era una È a tema. suggestione del Bonstide, se non erro, di Ma qualche c'avete della tempo roba fa. metallara? Abbiamo un sacco di cose, tra l'altro tutto ciò che non abbiamo puoi metterlo tu. E niente, salutiamo tutti, ciao, è stato bello, chiudiamo questa registrazione e grazie all'Ampi Stadera, grazie a Cecilia. Ciao. Grazie a voi dello